Don Pierino Gelmini è passato alla cronaca nell'estate del 2007 per l'accusa di aver baciato in modo illecito dei ragazzi. A mio avviso, però, a far notizia non dovrebbe essere tanto il suo comportamento, ma la sua fede. In un'intervista rilasciata a un quotidiano in merito alla morte, ha detto: "L'aldilà, ci, è un grande turbamento in me, e mira un salto nel buio, ma io mi fido di Dio. Di paradiso, inferno e purgatorio riferiti al dopo, non so. Non riesco a credere alla resurrezione della carne. Ma mi abbandono a Dio, credo in Lui, so che è luce, amore e vita. Il mio io sarà purificato. Durerà, ma il modo non so." Sono parole che fanno e dovrebbero far riflettere chiunque, non solo per il loro contenuto, ma per la fonte di provenienza. Infatti, parole del genere, se pronunciate da un incredulo o da un religioso qualunque, non farebbero tanto scalpore, ma dette da un sacerdote, cioè una guida spirituale del cattolicesimo, meno, assumono tutto un altro spessore. E se una guida spirituale, che ha fondato 250 centri di accoglienza, ha questa opinione riguardo all'aldilà, come possono averne una migliore i suoi seguaci? Ma occorre fare delle riflessioni per ordine. Innanzitutto, davanti a un sacerdote cattolico che dichiari di non conoscer nulla dell'aldilà, che vede la morte come un salto nel buio, ci si domanda cosa ha studiato e in chi ha posto fede per diventare una guida spirituale autorizzata dal cattolicesimo romano. Certamente non è stato formato sulla parola di Dio, perché essa testimonia molto chiaramente che dopo la morte non vi è il buio, ma un luogo felice chiamato paradiso e un luogo di tormenti e di dolori chiamato inferno. Inoltre non è vero che dopo la morte non si sa dove si andrà, perché è scritto chiaramente che chi ha posto la fede salvifica in Cristo quale unico salvatore, unico padrone e l'unico da adorare, servire e pregare, ha la vita eterna, cioè è sicuro ora di andare alla presenza di Dio, mentre chi non crede in Cristo come tale ha già ora la condanna eterna. Don Pierino Gelmini ha testimoniato di essere turbato al pensiero della morte, ma il suo turbamento è dovuto al semplice fatto di ignorare il futuro, mentre dovrebbe essere profondamente sconcertato per il fatto che dopo la morte lo aspetta la condanna eterna, pena non tanto causata dalla sua etica immorale, ma dal suo ateismo. Affermazione molto pesante, ma corrispondente alla realtà. Gesù infatti ha dichiarato in modo rivoluzionario di voler cambiare qualcosa qui e ora, e non più tardi dopo la morte. E sfuggito a molti che le dichiarazioni di Don Pierino Gelmini non sono state ritenute illecite, inadatte, blasfeme dalla religione cattolica romana, cosa che induce a pensare o supporre, meno ma non più di tanto, meno che l'insegnamento ricevuto dal sacerdote in questione sia stato questo. Con ciò non si vuol dire che il cattolicesimo romano insegni l'inesistenza dell'inferno, del paradiso o della resurrezione della carne dopo la morte, ma piuttosto che evidentemente questa istituzione vi crede. Quanto Don Pierino, infatti agli inviati come missionari o educatori, non è richiesto il presupposto di porre fede in ciò che predicano. Se non fosse così, prima di stabilire dei sacerdoti, le autorità religiose cattoliche chiederebbero come condizione di credere veramente a ciò che attesta la parola di Dio. Certo che non è una bella pubblicità per il cattolicesimo romano, ma una religione è sempre una religione, perciò non vale la pena prendersela più di tanto perché una religione vale un'altra. Infatti, anche se il cattolicesimo romano sostiene di avere la successione dell'autorità di Cristo, in pratica non ha proprio nulla di questa successione, perché chi seguiva Cristo e predicava il suo messaggio aveva la certezza della resurrezione della carne e dell'esistenza dell'inferno e del paradiso. Del resto, puntare il dito su Don Gelmini non ha senso, perché il capo spirituale della religione cattolica romana, cioè il Papa, è incredulo pure lui. Com'è possibile fare affermazioni del genere? Con quale autorità si può dire che Don Pierino è ateo e il Papa è incredulo? Chi è il giudice che può emettere una simile sentenza? nessun essere umano può giudicare proprio simile, ma lo può fare la parola di Dio, cioè Dio stesso. Se Dio dice espressamente che dopo la morte vi è la resurrezione, perché Don Gelmini non crede alle affermazioni di Dio in merito? Non è forse incredulo? Non si comporta forse come un ateo? E si comporta come ateo, non è dunque un ateo? Cosa stabilisce il carattere di una persona, le sue parole o il suo comportamento? Si potrebbe rispondere che Don Pierino Gelmini in pratica ha una vita religiosa, ma è la vita religiosa a rendere credente qualcuno o ciò che egli ha nel cuore. Se un sacerdote celebra la messa, legge il Vangelo, predica Cristo, ma non riesce a credere alla resurrezione, che cosa lo distingue da un ateo? Non necessariamente l'ateo è solamente uno che nega l'esistenza di Dio, ma anche chi nega ciò che Dio dice. E se una guida spirituale non crede a quello che la parola di Dio proferisce, come possono credere nella resurrezione i fedeli che lo ascoltano? Occorre spendere due parole in merito all'incredulità del Papa. Un incredulo è uno che non crede a ciò che viene detto. Se un mio amico mi confessa che possiede 3 case e io non ci credo, sono un incredulo. Nessuna offesa quindi a sostenere che uno sia incredulo. Perché il Papa è un incredulo? Perché non crede a ciò che dicono gli uomini? No! È incredulo perché non crede a ciò che Dio dice. Di Cristo Gesù, facendo in questo modo Dio bugiardo, e chi lo dice? La parola di Dio, quella parola che viene predicata ogni domenica dai pulpiti. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 1 GV 5.9.13. Ciò che ha scritto Giovanni non è difficile da comprendere. Almeno per 2 motivi. Primo, perché quando Giovanni scriveva, si indirizzava a persone semplici, come me e te. Perciò nelle sue parole non vi sono concetti oscuri o a doppio senso. Inoltre, Gesù ha detto che i piccoli fanciulli avrebbero capito il messaggio del Vangelo. In questo brano Giovanni non tratta argomenti astrusi, ma presenta il semplice messaggio della buona notizia. L'Apostolo Giovanni inizia col dire che se noi siamo disposti a credere a ciò che dicono gli uomini, a maggior ragione dobbiamo credere alla testimonianza di Dio. Questa testimonianza continua Giovanni è preferita a Cristo, e cioè che il Figlio di Dio è la vita eterna, e chi ha Cristo Gesù ha la vita eterna. E chi invece non ha Cristo Gesù non ha la vita eterna. Così termina il ragionamento Giovanni: io vi scrivo per dirvi che voi avete la vita eterna, perché credete in Cristo. Ora, senza ombra di dubbio, il Papa afferma di credere in Gesù Cristo, e se crede in Cristo perché non afferma anche di possedere ora la vita eterna? Perché il Papa, i cardinali, i vescovi e i sacerdoti insegnano che non si ha la certezza della vita eterna fino alla morte? Gesù ha detto nei Vangeli decine e decine di volte che chi pone fede in Lui ha, nel momento stesso in cui crede, la vita eterna. Non ha mai parlato di un futuro, ma del presente. Chi non ha la vita eterna ora, non l'avrà neppure dopo la morte. Ora si spiega perché Don Pierino Gelmini ha dei forti dubbi sull'inferno, sul paradiso e sulla resurrezione della carne. Perché non crede a ciò che dice Dio nella sua parola. Perché non crede che Gesù sia la vita eterna. Com'è possibile che Don Gelmini e il Papa siano increduli se credono in Dio e nel suo amore? Non si abbandonano forse in Dio? Non credono in Lui, non sanno che è luce, amore e vita? Questo è vero, ma in che Dio credono? In tutte le religioni vi è un Dio, un assoluto, un altissimo, ma non è lo stesso Dio. si dirà che essi credono nel Dio della Bibbia, e se così fosse, perché allora non credono pure che Gesù sia la vita eterna e che, riponendo fede in Lui, esclusivamente, è possibile sapere di avere la vita eterna ora? Perché nel cattolicesimo romano non si insegna la certezza della salvezza prima della morte? Per un semplice motivo, perché non si crede che Gesù sia morto per tutti gli uomini, per tutti i loro peccati, e che abbia riconciliato per sempre l'uomo a Dio. Com'è possibile questo se ogni domenica si afferma dai pulpiti cattolici romani che Gesù è morto per i peccati del mondo per donare la vita eterna a chi pone fede in Lui? E possibile perché ogni domenica si celebra la messa dove viene rinnovato il sacrificio di Cristo e si chiede perdono dei propri peccati. Com'è possibile celebrare la messa e chiedere perdono dei propri peccati se Gesù ha già perdonato tutti i peccati e ha riconciliato 2000 anni fa l'uomo a Dio? Se io chiedo ad un mio amico di perdonarmi di un torto fattogli e lui mi perdona, posso io chiedere ancora perdono? Se chiedo perdono non dimostro forse di farlo bugiardo e di non credere a ciò che mi ha condonato? Ecco perché l'Apostolo Giovanni dichiara che chi non crede di avere la vita eterna fa Dio bugiardo. Queste riflessioni mettono in evidenza quanto l'ateismo dilaghi sui pulpiti. Non importa se si parla di Dio, non ha valore leggere la parola di Dio, non serve predicare il Vangelo o insegnare il cristianesimo al prossimo perché se mediante la fede non si hanno le certezze che Dio ha promesso, siamo i più disgraziati su questa terra. E questo perché meno come sta scritto, meno senza fede, non si può piacere a Dio. Come può piacere a Dio chi non crede alla resurrezione, chi non crede alla certezza totale del perdono dei peccati, la quale invalida per sempre la motivazione della celebrazione delle messe e che di conseguenza ci rende coscienti di appartenere per sempre a Dio e che niente ci separerà da Lui, che l'errore di un sacerdote e della sua autorità spirituale non sia il nostro. Ottobre 2007. Ellero,